Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1863, al lavoro una commissione d'inchiesta sul brigantaggio. Qualcuno dice che alla fine tutto finirà nel nulla, ma intanto per i pochi che nel Parlamento e sulla stampa hanno sollevato il problema della gestione del Sud, si tratta di una vittoria. Il 16 dicembre del 1862 la Camera ha votato la istituzione di una commissione d'inchiesta sul brigantaggio. Qualche settimana prima, di fronte alle polemiche sullo stato delle province meridionali, lo stesso presidente Rattazzi aveva capito che il brigantaggio non poteva più essere venduto come una questione di ordine pubblico. Il suo governo è caduto lo stesso, ma l'idea della commissione ora è legge. La proposta è stata sostenuta soprattutto dalla sinistra e hanno colpito molti le parole del deputato federalista Giuseppe Ferrari. Potete chiamarli briganti, ma questi briganti hanno per due volte rimesso i Borbone sul trono di Napoli. In che consiste il brigantaggio? Nel fatto che 1500 uomini tengono testa a un regno e a un esercito. Ma sono semidei, dunque, sono eroi. I membri della commissione, 9 deputati, sono stati scelti da aree politiche e geografiche diverse per garantire il pluralismo. Il presidente è un moderato, Giuseppe Massari, di Bari. Gli altri sono Nino Bixio, di Genova, Aurelio Saffi, di Forlì, Giuseppe Sirtori, di Milano, Stefano Romeo, calabrese, Achille Argentino, di Melfi, Antonio Ciccone, di Nola, Stefano Castagnola, ligure, Donato Morelli, di Cosenza. Onorevoli di sinistra e di destra, del nord e del sud, il 7 gennaio si sono imbarcati a Genova e sono giunti a Napoli 3 giorni dopo. Da lì proseguiranno per Foggia. Preoccupa l'attraversamento di una zona infestata dal brigante Schiavone e si sta quindi approntando una scorta imponente, tale da dissuadere ogni intenzione di attacco. Ci si chiede però allora che cosa potranno scoprire sotto tale protezione i 9 commissari parlamentari. Già in precedenza il Parlamento aveva costituito una commissione guidata dal deputato lombardo Antonio Mosca. Le sue conclusioni però non sono state rese pubbliche. In realtà al Gazzettino risulta che il giudizio non sia piaciuto al governo perché attribuisce al brigantaggio un carattere sociale, svelando che si tratta molto spesso di una reazione all'arroganza della nuova borghesia terriera che si è alleata con il nuovo regno e ne ha tratto profitto. La commissione Mosca aveva di fatto bocciato la repressione come soluzione unica o prevalente. L'esecutivo non ha apprezzato e ha messo le conclusioni sotto silenzio. Si spera che questa volta non succeda lo stesso. Paolo Piacenza, al Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.